Il coordinamento lesbiche romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera a tutte. Quella che sta per iniziare è la nostra 274esima puntata della trasmissione È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. E io sono Caterina e manderemo in onda oggi la registrazione della presentazione del libro Quattro quarti di Giulia D'Alena, che noi del CLR abbiamo presentato il 16 novembre scorso. All'interno faremo semplicemente delle brevissime interruzioni per mandare degli stacchi musicali, ma è venuta talmente tanto bene la presentazione che ci piaceva proprio rimandarla in onda così per intero. Quindi buon ascolto, vi ricordo semplicemente che all'interno di questa trasmissione solitamente c'è la possibilità di mandare degli sms al numero 339-8536-270, però oggi, anche se ne mandate qualcuno, non potremo leggerlo in diretta proprio perché andrà la registrazione della presentazione, però insomma noi li leggiamo lo stesso, quindi se li volete mandare a noi fa comunque piacere. D'accordo, allora adesso un brevissimo stacco musicale e poi inizieremo con il sonoro della presentazione del libro Quattro quarti di Giulia D'Alena. Ciao e buon ascolto. Allora, farò del mio meglio per incentivare l'acquisto di un libro che io amo molto perché ho trovato molto, molto bello e nel quale ho ritrovato pezzi di storia anche mia, no? È un'autobiografia di Giulia che però ha delle componenti molto simili a quello che è stato il mio percorso. Io sono convinta che comunque quando poi lo leggerete troverete anche voi dei punti in comune perché spazia toccando diversi temi. Per fare questa presentazione io avevo chiesto a Giulia di mandarmi due parole su di sé, me l'ha mandate questa mattina. E quindi, nonostante la sua reticenza, io credo che sia invece importante farla conoscere. E quindi leggo le cose che mi ha scritto. Allora, sono nata a Bari nel 1966 e vivo a pochi chilometri da lì, in un piccolo centro. Lavoro come collaboratrice esterna per qualche agenzia editoriale e mi occupo di editing e redazioni. Insomma, leggo per mestiere e scrivo per passione, sognando di poter invertire questi parametri un giorno. Da 15 anni ho incontrato la politica delle donne. All'inizio con l'associazione lesbica separatista di Bari Desiderande, dove ho iniziato un lungo percorso, ho intrecciato legami forti attraverso l'impegno, la lotta, l'amore e la sorellanza. La radice separatista è stata per me la forza e la spinta primaria per portare alla luce il mio percorso identitario e riuscire finalmente a vivere il mio lesbismo con gioia, creatività e impegno, come esperienza personale e politica insieme. Ad un certo punto ho sentito l'esigenza di sperimentare nuove forme di impegno non separatiste e ho iniziato a lavorare con le femministe in Contaminazione, è il nome del gruppo? No. Da qualche anno faccio parte di un'altra associazione barese, un desiderio in comune, questo è tutto a peccato, costituito da lesbiche e femministe. La diffusione della cultura e dei saperi delle lesbiche e delle donne resta per me un obiettivo politico fondamentale, insieme a quello di segnare, con una prospettiva di genere e attenta alle differenze, lo spazio politico pubblico. Credo nel potenziale rivoluzionario delle parole e delle relazioni. La scrittura c'è sempre stata nella mia vita e l'ha accompagnata classicamente. Quattro quarti è il mio primo libro ed è il frutto di questa spinta collettiva, relazionale e politica, senza la quale non avrebbe mai potuto esistere. Allora, questo è quanto Giulia dice di se stessa. Per quello che riguarda me, invece, l'unica cosa che posso fare è comunicarvi le emozioni che questo libro mi ha dato, e me ne ha date proprio tante. Ripeto, a parte il fatto di aver riconosciuto in quello che lei raccontava di sé un pezzo di me, però è anche scritto molto bene, parla di cose che come lesbiche tutte noi abbiamo sfiorato, percepito, subito, vissuto, attraversato, quindi è un insieme di momenti che lei mette proprio nero su bianco, e quindi è molto bello per questo. E poi c'è la descrizione di questo rapporto che lei ha con la scrittura e quanto questa scrittura abbia inciso nella sua vita, perché è stata da sempre riconosciuta come una prerogativa di libertà. Attraverso la scrittura lei riusciva ad essere se stessa, dicendo di sé molto, molto più di quello che coscientemente percepiva. Infatti volevo leggere un pezzettino che a me è piaciuto tanto, pagina 11, scusate, perché più delle mie parole, secondo me, sono efficaci le sue per farvi rendere conto di quello che sto dicendo. Allora, si intitola Sibili e Decolli. Erano scie, sibili, frecce che mi passavano accanto, erano proiettili che mi sfioravano. Non riuscivo a vederle, troppo veloci e inaspettati. Erano echi lasciati a risuonare, me ne trovavo addosso i segni. Mi ritrovavo abrasioni senza sapere come, bruciature che si risvegliavano e dolevano nei momenti e nei luoghi più impensabili. Un giorno sentii un piccolo tonfo, come di un albero abbattuto lontano. Lessi quello che avevo scritto e sgranai gli occhi. Mi sono innamorata di una donna. Feci un salto all'indietro per la paura. Non era possibile, non potevo averlo scritto io. Rilessi le mie parole e mi sembrò di aver preso una pallottola nel pieno petto. Chiusi in fretta il quaderno, mi toccai il torace, non c'era sangue. Sentii un sollievo momentaneo. Meno male, l'ho scampata. Non era vero che mi sono innamorata di una donna. Per dire quanto lei, attraverso la scrittura, abbia fermato sensazioni, che proprio perché la scrittura era un sinonimo, una prerogativa di libertà, sono venute fuori a prescindere dalla sua volontà. Ed è questo che per me è stato bello e continua ad essere bello, perché situazioni analoghe a queste io comunque le ho ritrovate in altri aspetti della sua vita. Giulia racconta poi la relazione che ha con la famiglia, perché generalmente nell'immaginario che si ha delle lesbiche si pensa che facciano vite a sé stanti, da sole, che non appartengano e che non abbiano radici. Invece lei le riconosce, le cerca, le trova e le analizza, andando poi ad accarezzare molto gentilmente i rapporti che ha con Elvira, sua nipote, e dopo l'incontro con lei si pone delle domande importanti rispetto alla qualità del rapporto che ha con la nipote, analizza e riflette sui messaggi che manda e che questa bambina riceve. Poi prende anche in esame il rapporto con papà Luigi, che può anche paradossalmente non essere il papà vero, è la figura paterna che poi ognuna di noi ha, o quello vero o quello che si cerca, comunque c'è una figura paterna di riferimento. E poi c'è un passaggio molto, molto delicato, molto commovente, che si intitola Vent'anni nel 46, che secondo me è dedicato alla mamma, è il ricordo di questa mamma, ed è praticamente la descrizione di una figura sicuramente importante, assolutamente distante come tipologia, ma nella quale secondo me si riconosce un incipit che lei si ritrova addosso. Dopo magari se ci spieghi un pochettino meglio queste tre tipologie di relazioni, perché ti ripeto, al di là di quello che si può pensare, le lesbiche hanno delle relazioni e queste relazioni sono importanti. Ma in questo suo raccontarsi si affrontano anche aspetti legati alla sua opzione di relazione con le altre donne, adottata poi come scelta di vita. E questa relazione spazia tra il politico ed il personale. Giulia però non si limita a raccontare, perché in questa sua abitudine al relazionarsi, quindi condividere e rapportarsi con le altre donne, fa sì che lei apra dei veri e propri dialoghi, e questo, almeno in me, ha dato la sensazione di essere chiamata in causa, come se tu stessi parlando proprio con me, come se io fossi un frammento di una complessità, quella delle donne, che nella vita di Giulia trova e ottiene spazio. Tu parli di te, ma parli anche a me, quindi questo io lo trovo molto, molto bello, a me è piaciuto molto. E lo fa, per esempio, riflettendo sui condizionamenti ai quali ognuna di noi si sente quasi costretta, e lo fa ragionando sugli schemi prestabiliti che questa società vorrebbe farci assolutamente aderire, al quale vorrebbe che noi aderissimo, insomma. E leggo, se mi permettete, un altro pezzettino, perché trovo che anche questo sia significativo, ed è il titolo anche molto bello, perché è letto sul corpo. C'è stato un libro di Jeanette Winterson che era scritto sul corpo, che era altrettanto incisivo, e dice: cattivi maestri ed eccellenti pubblicitari si ostinano a farci credere che la femminilità sia una quantità misurabile, un numero magico ottenuto dalla somma di altri numeri, come l'altezza del tacco, lo spessore della corteccia cerebrale, la lunghezza della coscia o il calibro della rotula. E anche la fatidica terna 90-60-90, pur modificando le sue variabili a seconda dei decenni e delle necessità di mercato, è sempre stata un altro accessorio matematico, un cartamodello da sovrapporre addosso, impiegando sforzi disumani, tempo e costante per riuscire ad aderirvi il più possibile. Questo spiega perché a volte, anche semplicemente camminando per la strada, ma soprattutto in certe occasioni cosiddette mondane, ho l'impressione di imbattermi in un esercito di cloni, anzi, clonesse, nelle quali mi riconosco un po', perché tutte quante siamo passate dal tritacarne familiare che ci voleva a tutti i costi così. E mi ritorna in mente la mia idea di femminilità, tanto lontana dal freddo ed esteriore e dal dato esteriore e macchettistico, il nostro tocco sul mondo, i nostri occhi per interpretare la realtà, il nostro modo di esprimerci, di scegliere i colori e i vestiti, di accendere incensi, di desiderare un figlio o non desiderarlo, di manifestare la rabbia, di costruire reti invisibili di solidarietà. Non mi spaventa una moltitudine di lesbiche con gli anfibi, i pantaloni larghi e le canotte. Non mi impensierisce la voglia di tatuaggi. Non ho paura di imbavagliare culo e tette. Non sento il bisogno di essere riconoscibile e rassicurante. Terribile è invece il bulldozer dell'omologazione, l'ansia di essere all'altezza dei canoni estetici e comportamentali, la prevaricazione della moda, inaccettabile la violenza che alcune donne esercitano su se stesse per somigliare il più possibile a un'etichetta. Io trovo che sia una fotografia, e lasciatemelo dire, proprio perché io ho ormai una certa età, di alcuni atteggiamenti anche di immagine, no? Perché si si è costruito un meccanismo all'interno del quale spesso si confonde la visibilità con l'apparenza. Tu devi, allora, quando uno è giovane è normale che ha bisogno di appartenere ad un tutto abbastanza anonimo, che non accetta la benché minima differenza. Questo è normale, però è veramente devastante riconoscere quanto a volte le giovani generazioni aderiscono a un niente. Sono tutti uguali, veramente sono tutti uguali. Questo è per me un po' complicato da accettare, da mandare giù, perché poi, ripeto, avendo una certa età mi pongo il problema, ma allora non ho capito niente, non ho trasmesso niente, però vabbè, questo è un autogol per molte di noi. Per esempio, un altro aspetto che mi è piaciuto tanto, proprio perché si parla di relazioni, è quello nel quale Giulia descrive due contesti, e sono due contesti dove i rispettivi protagonisti sono un bambino, un adolescente di 13 anni e una giovane donna di 29, che hanno a che fare nella loro quotidianità con alcuni episodi. La giovane donna va a cercare casa e quindi chiaramente il proprietario gli dice: ah, non si preoccupi, qui ci sta la stanzetta per il bambino, capito? E quindi dà per scontato, perché purtroppo la società impone che tu devi essere necessariamente eterosessuale, e è difficile dire no, io non vedo le partite di calcio perché non ho un marito che c'ha Sky per vedere le partite, cioè fa un'altra cosa. È difficile poi impattare in un contesto del genere. Ma a me quello che mi ha fatto particolarmente riflettere è la descrizione del racconto di Francesco, che è un bambino di 13 anni che giocando a pallone con i compagni viene preso in giro quando sbaglia a tirare il pallone, no? Per cui viene schernito dai compagni, che se riesco a leggere il barese lo leggo. Aspetta un attimo, perché è un'impresa leggere il barese, cioè, perdonatemi se lo leggo. Allora, Francesco ha 13 anni, capelli neri a spazzo, la maglietta della Juve e poche parole. Tutti i pomeriggi si mette a fare i compiti svelto svelto, impara in fretta per fortuna, e quando ha finito se ne va in cortile. Passa a chiamare gli amici Filippo, Carlo, Gianluca, Elio, e con loro gioca a pallone. Uno fa il portiere, gli altri le due squadre a turno. Hanno energie selvatiche ed innocenti. Gridano correndo, sudando, scomposti per ore e ore. Mentre giocano si urlano i trucchi per calciare meglio, si sfottano con il linguaggio dei loro eroi Italia 1, si fanno la telecronaca addosso di ogni azione. E per tutto il pomeriggio il pallone tuona sul cemento e sui muri, e le voci di un'infanzia rauca salgono più in alto del pallone. Francesco è veloce, scattante, ma ogni tanto sbaglia, ogni tanto si distrae, e l'avversario gli ruba la palla. «Mo, Frangè, ci si ricchione!» ma sei proprio una femmina, me, ricchio! Francesco di solito ride quando si sfottono, ride di gusto e ricambia. Ma quando gli dicono così, ride più forte. Ride come un attore mediocre sul palcoscenico, come un Edipo scadente. Ride e con quella forzatura che è un dispiacere e nello stesso tempo una rassicurazione. Fa ridere anche a me, vedete, tranquilli, sono come voi. Ride con il diaframma, calcia con forza il pallone e prende congedo da sé. È anche questo uno spaccato di quanta difficoltà poi oggettivamente possano incontrare i giovani quando si trovano ad impattare con una cultura che ti vorrebbe macio, che ti vorrebbe forte, e quando tu hai il bisogno, che dicevamo prima, di appartenere a un tutto, cioè questo bisogno di appartenenza, e tu senti di essere un'altra cosa, non ce la fai a reggere il confronto, e quindi è molto più facile dire non è vero quello che sento, non è vero che provo altro. Sono come voi e quindi c'è una cancellazione, un'autocancellazione. E questa, se vogliamo, è una forma di omofobia interiorizzata, è una parola grossa, però c'è proprio una cancellazione di quelli che sono i tuoi desideri. E quando poi si trova a dover competere con le emozioni, con i sentimenti, se tu non hai neanche lontanamente nella prospettiva del tuo futuro un'opzione diversa dalla regola data, è difficile a 12 anni, a 13 anni, a 14 anni dire io voglio. È proprio difficile. Questo perché c'è un contesto che non te lo permette, chiaramente. Sto un attimino dilungandomi, scusate, era una dissertazione, però ripeto, a me questo libro mi ha dato tanti spunti di riflessione, perché lei poi ha la capacità di dire le cose e le butta là, no? E tu quando leggi il libro ti dici sì, è vero, mi è capitato pure a me di vedere un bambino, ah sì, mi è capitato pure a me di assistere a questa scena, ah, sì, anche a me tutto sommato una volta mi è capitato di essere scambiata per default per un eterosessuale. E poi dopo ci ripensi e quindi il ragionamento e la riflessione che ti viene successivamente è importante, perché tu comunque cominci ad attivare un percorso di elaborazione, no? E quindi è importante per questo. E poi sono cose che, ripeto, essendo stata un insegnante, io ho riconosciuto i meccanismi attraverso i quali poi gli adolescenti si sono portati ad appiattirsi sul niente. Intraprendente, giovane e brillante, ma più di ogni altra cosa dolce e consenziente. Cercasi apprendi virtuoso, onesto, imprenditore, garantista. Offre a donzelle in carriera un'opportunità di ascesa inaudita. Donna giovine illibata, cercasi. Donna usata, già rodata, cercasi. Donna sicula o padana, oriunda clandestina. Vediamo come balli a suon di samba o cia cia cia. A colpo d'occhio sei portata e molto telegenica, ma forse ti interessa più la musica. Cercasi badante, un ottantenne miliardario fascinante. Un'opportunità di vita più agiata. Donna impenitente e ladra, cercasi. Donna santa incensurata, cercasi. Deceduta il giorno prima, basta che sia buona. Oh, come paceresti se dovessi fare cinema. Scena prima, ciak motore, azione, poi si gira. O forse ti interessa la politica. Ministro degli affari a luci rosse o di cosmetica. Al giorno d'oggi tra i due sessi non v'è differenza. Il bel paese premia chi più merita. Vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87,9 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle 21.15, mentre il martedì femminista e lesbico inizia alle ore 17 tutti i martedì. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio che è www.ondarossa.info oppure tramite il sito ufficiale del CLR che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito da noi. Potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 22 oppure alla Casa Internazionale delle Donne scrivendo a CLR presso Casa Internazionale della Donna, Centro Femminista Separatista, via San Francesco di Sales 1B00165 Roma. Vi ricordiamo inoltre che avete la possibilità di riascoltare tutte le nostre trasmissioni andando su http://mfla.noblog.org e cliccando su È una calamità nella barra a destra verrà visualizzato lo spazio che le donne del martedì hanno messo a nostra disposizione dove sono disponibili gran parte delle nostre trasmissioni. Il CLR ha anche un profilo Facebook e quindi cerca CLR Contatti Donna e chiedi la nostra amicizia, sarai costantemente informata sulle nostre iniziative. Ripetiamo anche il telefono della radio che è 06 49 17 50 ed il nostro cellulare sul quale inviare i messaggi 339 85 36 270. Allora, vado avanti. Poi io come preferisci. Come se volete, cioè io andrei avanti, parlerei. Io volevo leggere tutti i libri in realtà. Esatto, però forse mi fermo un attimo. Sì, sì. Vabbè, io intanto fammi dire quanto sono felice, veramente felice di stare qua, perché all'inizio di questa storia di cui ho scritto due righe stamattina, veramente ci sta proprio la mia radice separatista, la storia delle desiderande e la storia di questo luogo, cioè veramente qui posso dire di aver mosso veramente i primi passi di politica lesbica separatista, per cui per me è un ritorno alle origini importantissimo questo. Allora, la scrittura, no? Iniziamo da quello. In effetti la scrittura ha rivelato a me stessa delle cose prima che io ci arrivassi consapevolmente e questo è stata la grande, per me il grande valore della scrittura, quando non sapevo assolutamente che altri o altre avrebbero letto. Era veramente una maniera per tirar fuori delle cose da me stessa. E questo è successo ovviamente in più aspetti della mia vita, fondamentalmente è stato quello del mio percorso identitario, perché è quello più appunto che sta lì nascosto e che si deve misurare invece con tutto un contesto che ti vuole assolutamente diversa e che quindi tenevo a cuccia. Invece in quello spazio così un po' chiuso della scrittura veniva fuori e però mi parlava di me stessa. E quindi probabilmente la scrittura è stato il primo luogo in cui ho visto qual era la mia vita e quello che desideravo veramente. Dopodiché questo desiderio ha iniziato a far generare il bisogno invece di confrontarsi con altre donne, di conoscere altri luoghi e quindi è iniziata questa storia di incontro con le altre lesbiche, prima a Bari, poi magari se vuoi ti racconto anche la maniera di simpatica, perché ci sono anche testimoni di questo inizio di questa storia. E piano piano, insomma, davvero io da sola non avrei potuto farcela, cioè ecco, sarebbe rimasto veramente tutto il mondo molto chiuso e molto circoscritto. Invece piano piano questi desideri hanno incontrato i desideri di altre donne. Quando tu dici che insomma quello che a volte hai letto ti sei ritrovata, questo è stato un meccanismo sorprendente per me, perché appunto io non ho scritto inizialmente queste cose per pubblicarle o perché circolassero, le ho scritte così come un mio bisogno, una mia esigenza, poi le ho fatte leggere ad alcune amiche, ad alcune compagne, e hanno iniziato a dirmi io sono questo, io mi ritrovo, io sono questo, e questa cosa mi è tornata veramente, ma io sono stata la prima a essere stupita, perché io e ho iniziato a capire, ecco, davvero l'importanza e la necessità che abbiamo di rappresentarci, perché se non lo facciamo noi, vediamo sempre rappresentate invece in modi o stereotipati o che non sono i nostri, che sono di altre culture, sia a livello proprio di, sempre adesso, di fiction televisiva, cioè voglio dire, una volta per esempio non esistevano le lesbiche, no, proprio nell'immaginario, adesso esistono, però comunque sono lontane da noi, sono altri mondi. Quindi io rimango sempre veramente stupita e sorpresa di come è una specie di circolo, perché poi invece facendo leggere queste cose delle mie amiche mi hanno proprio incoraggiata a continuare a farle circolare, ed è come se avessero preso una strada, ecco, da sé. Poi ci sono, ovviamente la scrittura mi ha portato in altri luoghi di me stessa, il rapporto con i miei genitori che sono molto presenti, è vero, avendoli anche io persi entrambi, è chiaro che poi la scrittura è stato anche un motivo per elaborare diciamo questo distacco, però è vero, c'è una maniera, diciamo, quasi per riappacificarmi con una mia origine, perché nel percorso, diciamo, identitario, insomma, in qualche modo tu devi dare, proprio devi fare uno strappo fortissimo con le tue origini, perché sai che devi andare a dare una delusione, essere diversa da quello che loro si aspettano. Questo percorso penso che l'abbiamo fatto tutte, coming out o non coming out, comunque di affermare io sono, cioè io sono arrivata veramente molto in là, ragazzina a 13 anni aveva difficoltà, ma io sono arrivata davvero molto in là. Però ecco, alla fine, diciamo, del percorso, probabilmente la scrittura mi ha aiutato a riconciliarmi con questa radice, appunto, da cui non possiamo prescindere, cioè ce l'abbiamo dentro, un pezzo di noi. E poi sì, le donne, cioè la politica, l'impegno, è stato naturalmente la strada che mi ha portato a capire che i miei desideri valeva la pena di costruire qualcosa insieme alle altre per realizzarli, per metterli in pratica e cominciare a lavorare insieme davvero per chissà, perché magari un ragazzino un domani, ecco, quando si sente dire uè, ci si ricchione, o meglio, forse perché non accada più, cioè lavorare anche sul linguaggio. Tutte queste cose sono così, come tanti input, come dici tu, che io ho scritto, ho segnato, e ancora, ripeto, sono sempre molto stupita invece di quando ritornino indietro, di come si crea una specie di specchio proprio, in cui ci si riconosce e ci si restituisce anche una... Questa comunque è anche, c'è anche un altro aspetto molto importante nel fatto dell'aver scritto. Io sono una che crede moltissimo nell'importanza delle tracce, perché noi siamo donne molto ricche, non economicamente, anzi, però siamo molto ricche come bagaglio di esperienza, come condivisione di intenti, come idea del mondo, siamo molto ricche. Allora, se le nostre esperienze noi riusciamo o riuscissimo a scriverle, sarebbe un'agevolazione, perché altre donne potrebbero riconoscersi. Le donne che verranno avanti, più avanti, si possono riallacciare a qualcosa che è già stato fatto. Io mi ricordo all'inizio, per esempio, quando ho cominciato a frequentare qui il Buon Pastore, avevo una fame di informazioni tale che mi andavo a ricercare tutte le cose fatte, il travestitismo dell'Ottocento, le poetesse, era la mia storia, io dovevo cercare delle mie radici che non erano state scritte in nessun libro di storia, quindi io me le andavo a cercare da qualche altra parte. Allora, secondo me, tutte le esperienze sono significative in quanto tali, ed è giusto che possano essere messe a disposizione anche di altre, perché quando tu leggi la storia di una lesbica, necessariamente qualcosa di tuo ce lo ritrovi dentro. Sì, anche perché appunto, come dici tu, non esistiamo molto poco perlomeno nell'immaginario ufficiale, poi insomma bisogna andarsene a cercare le storie. Oppure esistiamo nella nostra vita, nel nostro privato, come dici tu, abbiamo delle storie che forse per noi sono normali, però invece hanno qualcosa di molto forte, di straordinario, un po' tutte penso, proprio perché comunque comportano una fatica, un percorso, una decostruzione di quello che è intorno, una ricostruzione a partire da noi, che è una traccia importante da lasciare. Sì, anche perché ognuna di noi, se ha una casa, ha dovuto affrontare il padrone di casa che gli ha detto, ah, il suo marito dov'è? Capito? La stanza dei bambini, cioè a me sta cosa proprio... No, questo io infatti, questo l'ho scritto quando cercavo casa, ormai scrivevo esattamente il percorso che avrebbero fatto fare, la stanza dei bambini, la televisione per suo marito, da qua, dal balcone può guardare i bambini. Sono cose che comunque le hai attraversate, le abbiamo attraversate un po' tutte, ma c'è un altro aspetto poi in questo libro che a me piace tanto, anche il... Non ti trovi perché devono fare il suo Ah, ma è già più avanti, questo è già più molto oltre. No, è sua moglie, grande. Dicevo, il discorso legato al destino delle prossime. Tu parli sempre in questo dialogo aperto con le altre donne, ponendo delle domande, che sono state domande rivolte a te. E sono domande alle quali probabilmente non stai cercando una risposta. È una richiesta che tu fai alle nuove generazioni di farsi carico di reato. Esatto, capito. Quindi è molto, molto bella. E poi ci sono altri due aspetti in questo libro di cui tu parli e di cui si sente, si percepisce che sono aspetti che ami. Una è la musica e una è la poesia. Quanto queste forme di arte ti hanno... Ma la musica, impagnato? Infatti io si chiama Quattro Quarti, molti chiedono perché si chiama Quattro Quarti. Non lo so, cioè nel senso, il titolo è venuto prima, poi mi sono chiesta perché l'ho chiamato Quattro Quarti, hanno stato un... Vabbè, la musica è stata sempre parte proprio della mia vita, c'era in casa, c'era sempre qualcuno che suonava, pure troppo certe volte, cioè, è sempre entrata dentro di me e quindi, però la musica è anche un bel espediente a volte per raccontare le cose, cioè la musica è il suono delle parole, quindi mi ha aiutato molto nel raccontare. E, la poesia è un modo, diciamo, di esprimersi, che probabilmente, infatti non è un caso che l'ultima parte, l'ultimo quarto, quello che è quasi tutta poesia, è quello dove si parla di amore, perché diciamo la poesia è una forma più rarefatta, per cui laddove è più difficile dire delle cose, la poesia insomma estrae un po', è una sintesi estrema, se si può chiamare poesia, quello che io scrivo. No, si chiama poesia, io se mi permettete ne leggerei due, mi sono piaciute tutte, ecco. Però diciamo che vorrei leggere queste due semplicemente perché secondo me descrivono, sono due fermi immagine di due situazioni particolari, una è legata al dolore e una è legata proprio all'amore, per cui, e sono entrambe bellissime. Io non sono una leggitrice di poesie, quindi abbiate clemenza, però mi piacciono talmente tanto che le leggo. Allora, una sentita, ti sei dimenticata. Ti sei dimenticata del mio corpo e delle tue parole, e l'amore non è una scienza esatta. Del mio nome ti sei dimenticata, e quando guardi me, guardi attraverso. Se tu mi avessi spinto quella volta in mezzo agli oleandri, sarebbe stato meglio. Meglio una morte decisa, irrazionale, che queste messe funebri, spietate, quotidiane, che passano in corteo nei miei risvegli. O forse no. Sarebbe stato meglio se tu mi avessi fatto un po' più male, così non starei qui, chiusa nel chiostro brillante e luminoso del ricordo, o al massimo sospesa sopra il ponte tra pioggia e mare, tra l'amore e il bene. Adesso vivo nel danno permanente di non avere corpo e nome, ma sentire con tutto il corpo insieme la carezza e la bellezza del tuo nome. Ti sei dimenticata del mio nome, ma la vita non è una scienza esatta, ed io rimango scalza qui a cercare dentro i tuoi occhi di lupo e di delfino il tempo giusto per dimenticare e chiudere per sempre i conti col dolore. tosta, però è bellissimo. A me è piaciuta tanto. Invece quest'altra è un inno all'amore. E la auguro veramente a tutte quante perché è bellissima. È proprio lì, poggiato sulla tua schiena, che il mio respiro ha trovato casa. Là, dove metto il naso, curioso e rabdomante. Poi faccio un cerchio di braccia e di silenzio. Per qualche istante sarò il tuo mantello e con un po' di fortuna potrò sentirti sognare, oppure annusare la tua anima. Per qualche istante con il mio respiro cucio il tuo sacco a pelo. Tu ti abbandoni al cielo stellato, io stringo questa notte e avvolgo la mia pace nel tuo sonno. Bella. Bella. Invece io ti volevo chiedere il tuo rapporto con la politica, un po' di sì, più, sì. Nel senso che tu hai fatto già una bella dedica nel libro che ho preso con felicità, insomma, con gioia, no? E che è appunto riconoscere il percorso comune, no? Il percorso che ci ha... che abbiamo condiviso, anche se in posti completamente diversi, no? Quindi ci siamo trovate e spostandoci, ma anche trovate per quello che facevamo. Un parallelo, no? Diciamo. Sì. Quindi con un'unione di spirito, di anima, no? E comunque di sogno, perché la cosa più bella di tutti è la dimensione. Avere un sogno che si condivide, no? Quello, quindi il sogno che si condivide a distanza. Lo si può fare benissimo collettivo, è la cosa più bella che c'è, sognare collettivamente, no? E però nel tuo libro ci sono anche alcune cose rispetto a ora non lo leggerò perché abbiamo letto già troppi pezzi e quindi va bene, però ci sono delle cose molto carine che tu dici, per esempio, su carine, molto interessanti, forse non troppo carine per qualcuna o per qualcun altro, eccetera, però per me condivisibili e molto interessanti, e comunque che mi danno gli scopi di riflessione. Per esempio il rapporto con la massa, no? E quindi con la massa che fa corpo comune, ma come? Cioè qual è l'interrogativo che si pone quella massa che si muove? E quindi fai il discorso sul Pride, no? Beh, Pride, allora intanto il mio rapporto con la politica è un rapporto col desiderio, no? Cioè, l'hai detto tu, ma implicitamente è questo, cioè sono due cose inscindibili. Non potrei continuare a impegnarmi nella politica, che poi è una parola che si può riempire veramente di tanti significati, e diciamo le mie trasformazioni, i miei passaggi sono proprio questo, cioè un cambiare significato, ma diciamo aumentandolo, arricchendolo, ecco, alla parola politica. Però c'è sempre la parola che c'è dentro, il desiderio, cioè essere mossa dal desiderio di raggiungere un obiettivo che è quello inizialmente quello proprio di stare bene, cioè credo sia quello di tutte. Il pezzo che ho scritto sul Pride è stato scritto dopo che a Bari c'è stato il Pride, che è stato veramente una calamità, come diciamo, una calamità naturale, perché insomma è una cosa che ti mette, cioè il gruppo lesbico arriva il Pride a Bari, ci devi stare in qualche modo, anche se è una grande macchina che si muove ed è anche piena di contraddizioni e di... diciamo, uno degli interrogativi che mi ero posta io era questa, non voglio dire favola, però insomma questa mitologia dell'essere, del venir fuori, della rivendicazione comune, sapendo anche invece quante donne restavano nell'ombra, restavano nascoste, non ce la facevano, non ce la potevano fare, cioè, insomma, ho cercato di ragionare proprio sugli aspetti anche contraddittori di quello che sembra un momento di grande, ed è giusto che ci sia, ed è giusto che esista, cioè di grande liberazione anche proprio di poter dire io sono, che però ha diciamo una faccia oscura inevitabilmente, e, insomma, che io sapevo di queste facce oscure che c'erano nella mia città, per cui ecco, non basta il giorno solo o la rivendicazione singola, ma veramente è un lavoro molto più capillare e più complesso, quindi ecco, la politica in questo senso per me si unisce ai significati come appunto l'impegno, la lotta, la relazione fondamentalmente, cioè la politica, anche quella che non viene fuori, quella che non è gridata all'esterno, che però fa crescere le relazioni e quindi ti permette in qualche modo di realizzare i tuoi desideri. Di realizzare un cambiamento almeno per te, no? Per te, cambia anche tutto quello che interfaccia, sì, come se fosse una propagazione, sì, no? Sì. È chiaro, è uno quello che noi abbiamo sempre sperato. Cambiamento quindi culturale, cambiamento di mentalità, eccetera. Sì, però proprio nella contraddizione, cioè io sono molto d'accordo nel discorso della contraddizione del Pride, perché pure per noi il Pride, per esempio quello del 2000, il Pride mondiale per noi è stato un grosso scatto. Cioè nel senso, abbiamo partecipato, abbiamo anche noi, infatti, vari gruppi lesbo-femministi che si sono messi insieme, abbiamo costruito un evento separatista, When I Was Told, c'era. Eccetera, eccetera, quindi tutta una serie di cose, e però nella giornata cosiddetta dell'orgoglio mondiale, dove tutto doveva apparire, non sono stati più visibili tutti, e tutto si è perso in un indistinto che non era, questa è stata la cosa più scioccante per alcune di noi, almeno dopo, a posteriori ovviamente, perché mentre eravamo nella macchina, la macchina procedeva e anche una certa velocità, è una cosa allucinante. E poi invece dopo ci siamo resi conto che in quell'apparato, in quell'ingranaggio, noi alla fine siamo state schiacciate, siamo rimaste dentro gli ingranaggi e non facevamo parte degli ingranaggi, neanche. Tutto sommato. E quindi questo è stato sì, e che poi diventa, mi viene a fare un parallelo forse stupido, però mi viene, così come mi viene di farlo, lo dico, mi sembra che i Pride ormai siano un po' come l'8 marzo, no? Per cui la giornata della libertà è solo guidata, che è una grande rappresentazione popolare, nel senso però più basso del popolare, che si possa dire, e poi invece, come l'8 marzo, le donne sono libere, vanno a mangiare fuori, magari vanno agli spogliarelli degli uomini, come se quello fosse il giorno della libertà. Cioè, stanno meglio le collaboratrici domestiche, cioè tutti i giovedì, a me. Cioè, stanno meglio le donne, in generale, che escono l'8 marzo, cioè, magari quello, magari pure quello, che trovo questi bambini, che sono così, quindi ho l'impressione anch'io che poi il Pride stia diventando poi questo, insomma, dove un apparato che ormai è in movimento, no? La macchina oleata è sempre tenuta oleata e quindi alla scadenza riparte però sempre più con uno scollamento da quella che può essere il desiderio o il sogno collettivo, come viene da dire a me, e quel sogno collettivo però deve poter rappresentare anche me, perché se non ci sto quel collettivo si perde. Io penso che il Pride è comunque una grande occasione, il punto è come venga spesa. Mi rendo conto, per esempio, le lesbiche ci sono, proprio i Pride si chiamano generalmente gay Pride, no? Tutti dicono il gay Pride, l'altra sera stavo con delle amiche, peraltro femministe, cioè, però gay Pride, allora subito le abbiamo, no, attenzione, il Pride di Bari si chiamava Bari Pride, cioè non esisteva proprio il concetto, ma neanche omosessuale, la parola, la categoria più piatta che possa esistere, cioè, quindi già nel nome. Però appunto la domanda è esserci, sottrarsi, non esserci, è difficile. Io penso che se si riesce a costruire comunque un percorso tra chi ha voglia di esserci o a dare un'occasione anche, non riferito alla parata finale, all'ultimo giorno, cioè costruire dei percorsi come un po' accadde qui nel 2000 con When Night Is Falling, come abbiamo cercato di fare anche noi a Bari, comunque abbiamo fatto degli eventi paralleli, cioè se si riesce comunque a prendere questa occasione per costruire comunque un percorso che ci calza, cioè che calza i nostri desideri e che permette anche probabilmente a qualcuno o a qualcuna di trovare un aggancio, trovare un punto di riferimento, venire fuori, cominciare a vale la pena, però il rischio c'è, il rischio di essere proprio stritolati, è difficile. Ma questo, diciamo, è il rischio di quando ci si misura con le cose molto grandi o molto pubbliche, è fortissimo. Tu nel libro, quando tocchi l'argomento del Pride, dici una frase che mi ha colpito molto, perché dice: alla fine parlano della eccentricità, non parlano di te, no? È, quindi certo. È un... Sì, che ci sta pure l'eccentricità, sì, vuol dire, io non la... Però è chiaro che... Sulla Pride. È questo. No, poi non esisti più. Certo, poi continui ad essere l'eterosessuale che... Come lui non era neanche eccentrico. Ah. Noi eravamo già alla Puglia di Vengola, sì. Bari di Emiliano, eravamo vicini, eravamo oltre, eravamo talmente superato il problema che eravamo solo pari tranne. Eravamo andati troppo avanti che vedono non c'è trovato più. Sì, siamo state scavalcate. Quando si dò lo striscione dell'arcigay, ci fu questa scena tra due personaggi che la dice lunga della situazione a Bari, e Giulia mette il dito della piaga di quello che poi è rimasto là, cioè le persone nell'ombra, questo dei problemi, sono rimasti là e Pride non ha smosso nulla, no? E c'è stata questa scenetta, sfilava lo striscione dell'arcigay e uno fa all'altro, ah, chi se sono gay? No, chi se sono chiuso? Sono arcigay. Beh, io mi rendo conto che continuare senza leggere è difficile, se li leggo poi non si comprano il libro, quindi... No, io, a parte gli scherzi, credo che sia un libro che valga proprio la pena di essere letto. E, intanto ti ringrazio per averlo scritto, speriamo che questo tuo desiderio possa essere ulteriormente condivisibili, quindi ci rivediamo al secondo. Va bene. Va bene. È una minaccia. Aggiungere solo una cosa, io sì. Di questo libro ho già avuto traccia, ma c'è infatti, perché è una lunga storia. Una bozza. Una prima stesura. Non di questa portata, e era molto interessante, tra l'altro. Presentiamo proprio in radio con Annalisa, che stasera non c'è, molto. E quindi in questi anni che sono intercorsi tra quella prima lettura e quella insomma, che ho fatto invece qualche giorno fa, ho pensato di sai quando Giulia finirà di presentarci questa cosa, e finalmente il libro è arrivato, mi fa molto piacere, tra l'altro è un libro che si legge con molta facilità, non perché sia pieno di contenuti, ma semplicemente perché appunto è molto coinvolgente, è molto dinamico e anche a tratti molto lirico, se posso dire questa cosa, senza... Io l'ho trovato molto bello, vorrei dire che tra le tante cose che mi sono piaciute, ce n'è una in cui tu parli di tuo padre e della sua calma. Sì. Per me è stato molto bello, ho avuto un rapporto molto conflittuale con mio padre. E quel racconto di tuo padre e del tuo rapporto con lui, della preoccupazione, della paura dell'essere accettato e non essere accettato, di trovare un punto comune e poi trovarlo senza aver detto neanche una parola. È stato molto, molto bello, è stato uno dei passaggi che sono più piaciuti di questa... Non dico libro, nel senso che non è un libro nella spacciazione comune, è una cosa di pensieri, uno sguardo sul mondo, è una idea di rete, di solidarietà, di collettività, è un bello, mi è molto piaciuto e ti ringrazio di essere venuto a portarci qui stasera, mi dispiace che non ci sia più pubblico, perché insomma lo renderebbe davvero... Ti ringrazio moltissimo, io tra l'altro questo brano, insomma questo racconto, forse anche uno dei pochi diciamo proprio racconti, è proprio il simbolo, cioè è la traccia di come la scrittura è arrivata prima di me, sì. Perché quando ho scritto questo racconto, io ero veramente all'origine della mia storia, cioè ancora non avevo incontrato le altre lesbiche, stavo ancora in quella fase di scrivere e non avevo una relazione, cioè il problema proprio di pormi rispetto non esisteva, c'era cioè tutto, però già il mio inconscio stava lavorando e poi tutto questo in qualche modo è davvero successo, però la scrittura è arrivata ma molti molti anni prima. Siamo contenti. Quindi adesso scriverò qualcosa che riguarda, forse io riguarderà diciamo, i miei, quello che mi accadrà fra 20 anni. La giornata di oggi le parliamo fra 20 anni. Esatto. Ci vediamo un po' prima. No, prima. È una minaccia. Sono simbolismo.